Buongiorno a tutti e tutte, stiamo facendo un'altra intervista per il nostro speciale sui 20 anni di Genova. Lo scopo, come le altre volte, lo scopo delle nostre interviste è quello di raccogliere le testimonianze di chi era presente per elaborare un po' in un processo collettivo, cercare di elaborare una storia di Genova che vada oltre i ricordi personali e i vissuti personali, per provare ad analizzare quello che è successo in questi 20 anni da Genova e cosa ancora ci può insegnare Genova. Oggi abbiamo con noi Andrea Staid, che non ha bisogno di altre presentazioni, se non fosse perché gliel'abbiamo tartassato di chiamate durante il lockdown, per cui i nostri ascoltatori e ascoltatrici lo conoscono benissimo, giusto Andrea? Dato Giusto, giusto, buonasera, buongiorno a tutti e a tutte. con tua grandissima gioia sei stato tempestato di telefonate e ancora si mormora che forse se dovesse ricominciare zona rossa, ancora tu saresti il bersaglio delle telefonate peggiori, pensa. Bene, sono felice, mi avete fatto passare dei bei momenti di divertimento e anche di serietà, però. Certo, quando mancavi tu era Esatto, più quando non c'ero noioso. io, quando non c'ero io. Tu pensa che è la strada lunga che hai fatto? Sei diventato militante politico, intellettuale, antropologo, presenti libri, scrivi, eccetera. Poi per arrivare finalmente ad avere quelli due deficienti che ti telefonano e ti fanno fare le È cose. l'apice di una carriera. Esatto, sì, è proprio il culmine della parabola. Va bene, dai, basta dire minchiate come al mio solito. Iniziamo subito con le domande. Allora, la prima domanda, quella più semplice per rompere un po' il ghiaccio, è: tu come sei arrivata a Genova? Qual era il tuo vissuto personale? Di che realtà facevi parte? Quali progetti avevi? Quali finalità ti davi per partecipare alle mobilitazioni di Genova nel 2001? Sì, potremmo dire proprio che in realtà io sono cresciuto con Genova, nel senso che io frequentavo il circolo dei malfattori di via Torricelli 19 a Milano e facevamo parte del network Gli Anarchici contro il G8. E per tutto l'anno, essendo in quegli anni uno studentello, tutto il 2000 abbiamo fatto iniziative in tutta Italia. Io ho avuto la fortuna, grazie proprio a queste giornate del G8, di farmi un anno, il 2000, tutto di preparazione al G8, e quindi ho conosciuto compagni di tutta Italia e tutta Europa. Perché facevamo le assemblee in giro per l'Europa, soprattutto per l'Italia, ovviamente. Quindi ho creato proprio un network. Io vivevo a Opera, avevamo un collettivo che si chiamava Il Grido, che aveva una specie di garage autogestito dove facevamo diffusione e distribuzione di controinformazione, e grazie proprio a quell'anno abbiamo, insomma, creato un network, oltre che col circolo, anche con questo piccolo spazio di periferia che faceva le cose insieme ai rozzanesi del collettivo Champagne e Molotov, dove c'era anche Dax. E quindi niente, in quegli anni lì, in quell'anno lì, diciamo che mi sono un pochino formato di più politicamente, perché ho cominciato a conoscere, a studiare meglio le situazioni che frequentavo. E quindi per me è stato un anno molto bello, molto, molto formativo, dove ho conosciuto tantissime compagne e compagni che avevano fatto anche le lotte degli anni 70, addirittura degli anni 60, con i primi gruppi di azione libertaria e cose di questo tipo. E quindi, insomma, è stata un'esperienza bellissima. Quindi arrivo al G8, diciamo, molto preparato su quello che doveva essere, anche se poi ovviamente ci ha stupito a tutti su certe cose. Però appunto siamo arrivati anche facendo prima del G8 a giugno, cioè prima delle 3 giorni del G8, una manifestazione internazionale, soprattutto nazionale, a Genova, fatta proprio dal network Anarchici contro il G8, che era appunto questo network di anarchici organizzatori, non so come chiamarlo, comunque legato un po' anche a Umanità Nova, che è il giornale anarchico. E quindi niente, siamo arrivati poi a quella 3 giorni che noi siamo, io personalmente insieme a tanti altri, siamo andati prima, 10 giorni prima a Genova. Stavamo al Pinelli, che era appena stato occupato, al centro sociale Pinelli, e lì ci siamo ritrovati appunto tutti quanti per costruire i bagni. Il posto era stato occupato, diciamo, quasi apposta per avere un luogo dove far campeggiare e stare un po' tutta l'area libertaria che si vedeva però nell'ottica organizzatrice. E niente, quindi questa è stata un po' brevemente la mia esperienza che mi ha portato a Genova, che è stata comunque estremamente positiva. Ma quali erano, cioè, gli obiettivi degli anarchici contro il G8? Quali erano in generale? Qual Beh, era l'idea politica che li portava a stare a Genova? Alla fine, adesso così, ovviamente sono abbastanza vaghi, no? Generali, erano quelli un po' che avevamo tutti. Quello che ci differenziava, per dire, dai movimenti più rete Lilliput o social forum era che le parole d'ordine erano comunque rivoluzione sociale contro lo Stato, e non soltanto, cioè, il nostro non era una visione contro la zona rossa, ma era proprio una critica totale allo Stato, alle sue istituzioni, proponendo appunto l'azione diretta. L'azione diretta, però, attenzione, perché a volte viene banalizzata questa parola per azione diretta, non intendevamo, io non intendo neanche oggi, scontri di piazza. Può anche essere quello, ma l'azione diretta significa non delegare la gestione del potere e soprattutto la gestione del cambiamento a qualcun altro, a un partito, a un qualcuno che ha una strutturazione gerarchica. Quindi diciamo che quello che ci differenziava erano le parole d'ordine degli anarchici di sempre, insomma dall'Ottocento in poi. Quello che ci differenziava da altri anarchici era il fatto che c'era stata una base organizzativa federata su scala europea, addirittura potremmo dire mondiale. Quella europea ha funzionato, quella mondiale un pochino meno, e quindi appunto a noi non interessava l'invasione della zona rossa, e avevamo tutto un network che era legato ai lavoratori e quindi ai sindacati di base, tanto che il 20 gli anarchici contro il G8 non sono stati nelle piazze, quelle diciamo più famose, ma noi eravamo a fare lo sciopero con i lavoratori sia portuali ma non soltanto, con tutti i sindacati di base, quindi eravamo in un'altra piazza rispetto a quella poi più famosa, diciamo, dove c'erano più di 10.000 persone a manifestare appunto contro il sindacato riformista e della concertazione, e che vedeva proprio nei lavoratori uno di quei grimaldelli per criticare seriamente e profondamente quello che erano i signori della globalizzazione. Quindi diciamo che questo era quello che aveva spinto soprattutto il network degli anarchici contro il G8, non tanto lo scontro con la polizia, che non ci interessava minimamente, non ci interessava in nessun modo di scavalcare la zona rossa, ma fare un discorso invece di organizzazione network internazionale, di critica al capitalismo radicale attraverso delle lotte che in quei giorni andavano in piazza, ma che dovevano essere proprio una forza poi da portare avanti dopo il G8, prima, durante e dopo. Dopo il G8, insomma, il primo giorno c'era stato invece tutto il discorso che avevamo portato avanti noi, insieme a tutti gli altri, chiaramente, del diritto di circolazione, e anche qui quello che ci differenziava con altri gruppi era quello del non fare delle lotte per i migranti, ma lottare con i migranti, quindi non spettacolarizzare il migrante, ma iniziare un percorso lungo di liberazione assieme, tramite proprio anche il discorso del mondo del lavoro. Quindi questo era, diciamo, già 20 anni fa si parlava di queste cose, e quindi libertà di circolazione, chiusura dei CIE, che si chiamavano CPT, e cose di questo tipo. Ma tendenzialmente quello che ci differenziava soprattutto dal social forum, di cui non facevamo parte, era la questione appunto io la chiamo ancora oggi, no? Un po' quello che non riesco a trovare altre parole, riformista, cioè di cercare di collaborare o trovare delle soluzioni assieme a partiti e politici. Noi eravamo completamente distaccati da questa visione. E poi il 21 è successo il delirio per tutti, e quindi delirio, appunto, e basta. Generalizzato per tutti quanti. Ma a questo punto, appunto perché dalla tua posizione soggettiva di quando eri a Genova, così anche degli anni successivi, la posizione degli anarchici rispetto al G8, all'organizzazione del contro summit, delle proteste contro il G8, era effettivamente diversa, cioè proprio era quella smarcata, cioè perlomeno anche in altre interviste emergeva che c'era il Genova Social Forum e i social forum che raccoglievano tutte le anime dei centri sociali, insieme anche ad ARCI, la FIOM, alcuni partiti di Cobas, Esatto. eccetera. E poi l'altro bloccone era anarchici contro G8. Quali erano i rapporti tra i diversi gruppi? Adesso immagino che tu giustamente saprai di più il rapporto tra quello di cui facevi parte tu, anarchici contro G8, e come si dice, social forum, o anche all'interno della stessa area anarchica, cioè tra i vari movimenti, qual era il rapporto al tempo? Ma allora, semplicemente diciamo che c'era tutta un'area anarchica che assolutamente non dialogava minimamente con anarchici contro il G8, perché erano anarchici anti-organizzazione, quindi per lo spontaneismo di piazza, tutte le piazze insomma che erano legate più al blocco nero, e quindi non c'era dialogo. Si è provato ad avere un dialogo, ma non c'è stato, e quindi erano altre piazze. e con gli altri del movimento, in realtà dipende, cioè con i sindacati di base c'è stato un grande dialogo, soprattutto con la CUB, ovviamente con l'USI, meno con i COBAS. Con l'area, diciamo, veneta invece c'era scazzo assoluto, quindi non ci si parlava proprio, non ci si guardava neanche in faccia, quindi non c'era nessun tipo di rapporto. L'unico rapporto che c'era stato negativo era quello che una determinata area, appunto veneta, aveva fatto addirittura quasi degli sgomberi contro l'area libertaria, che non accettava di stare dentro le loro dinamiche di network, e quindi non c'era rapporto, non c'era nessun tipo di rapporto, non c'era né lo scazzo di fatto, perché non ci si frequentava proprio, e quindi anche in piazza lo scazzo non c'è stato minimamente, perché non ci siamo mai visti in quei giorni. Lo scazzo principale nostro è stato in realtà tutto interno all'area libertaria anarchica, perché appunto con gli altri non avevamo nessun tipo di rapporto, non c'era relazione. Anche la manifestazione che avevamo fatto il 9 giugno, se non ricordo male, c'erano migliaia di persone, ma erano tutte appartenenti al network degli anarchici organizzatori europei. È stato un bellissimo corteo, veramente partecipato, però non è che c'erano altre aree, cioè sì, le altre aree che c'erano, ripeto, sono i sindacati di base con cui c'erano ottimi rapporti, e tanto di quello che erano le associazioni che lottavano contro i confini, cioè le associazioni no border, ante litteram potremmo dire. Però con le altre realtà, vabbè, partiti, nessun tipo di relazione, rete, Lilliput, cose varie, nessun tipo di relazione, con l'area tutte bianche, nessun tipo di relazione, e quindi questo era un po' che, ovviamente eravamo un'area minoritaria, stiamo parlando di il corteo, quello del 20-10.000 persone, a mio ricordo, forse qualcosa in più. Lo spezzone del 19 saremmo stati 3.000 persone, lo spezzone del 21, boh, perché dopo 5 minuti scontri tutto il giorno, e quindi lo spezzone poi è saltato, comunque qualche migliaio di persone. Quindi è ovvio che eravamo minoritari, e non ho problemi a dire la verità, cioè è così, cioè, perché non dirlo sarebbe una falsità. Diciamo che questo era quello che era stato fatto, ma poi all'interno dell'area anarchica, appunto, ripeto, noi c'eravamo noi, c'erano quelli che poi hanno conosciuto di più tutti, e tutti hanno cercato di costruire delle storie su di loro, e poi c'erano quelli che invece se ne sono andati, perché mi ricordo benissimo che c'è stata un'area degli anarchici che io sinceramente ho rispettato allora, e la rispetto ancora adesso, che ho detto: a noi non ci interessa di farci fregare in quei giorni che sappiamo che abbiamo tutti i riflettori puntati addosso, e hanno organizzato delle critical mass o dei tornei di racchettoni contro il G8, ma lontani da Genova. Quindi c'era anche quest'altra area più creativa che non c'aveva avuto voglia di venirci a Genova, insomma. E c'è, cioè, altri gruppi e centri sociali milanesi con cui avevate rapporti nella politica quotidiana, invece, cioè, lì eravate sempre comunque divisi rispetto all'appartenenza No, o alla. a Milano ci si frequentava tutti tranne Leoncavallo, cioè eravamo tutti in buoni rapporti. Addirittura io mi ricordo che frequentavo anche il Vittoria per le assemblee, che di sicuro aveva una base molto più marxista-leninista di altri a Milano. Non c'erano scazzi con nessuno, strettissimi rapporti amicali e proprio a livello di compagni con la RAF, la rete antifascista, quello che poi è diventato l'Orso. Quindi no, i rapporti milanesi erano ottimi, tranne appunto non frequentarci minimamente con il Leoncavallo, ma nel senso che io non c'ero mai stato in vita mia, ci sono stato poi dopo, quindi non era considerato un centro sociale per noi, ma Certo, qualcosa da cui stare lontani, ma insomma. durante le giornate di Genova comunque non avete fatto collaborazioni, eravate ognuno No, nelle sue piazze. no, non c'erano scazzi, ripeto, Ok, quindi ci si certo. incontrava, ci si salutava, qualcuno veniva allo spezzone, salutava, poi c'era un po' tutto il discorso che all'interno della RAF, per esempio, c'erano tanti anarchici anche oltre ai comunisti, e quindi magari in quei giorni stavano nello spezzone degli anarchici contro il G8. Quindi sì, c'erano assolutamente ottimi rapporti, no, con quelli Certo. dei transiti, con la parte dell'autonomia appunto non legata all'area veneta. C'erano assolutamente buoni rapporti, però ognuno si faceva il suo in quei giorni, capisci? Cioè non Ok. c'era non c'era un c'era molta separazione, ci cioè, avevamo più rapporti in quei giorni con i francesi, con i tedeschi, con i Certo. greci, con i portoghesi, Che però con gli svedesi, i condividevano. norvegesi, gli americani, cioè Certo. quindi sì, avevamo più, era quello il network nostro, e senza scazzi, ripeto, perché poi la manifestazione con dei sindacati di base dove noi avevamo aderito proprio come sigla Anarchici contro il G8, c'erano altri, e non abbiamo avuto nessun Nessun problema problema. nel rapportarci, perché abbiamo rispettato quello che si era deciso in assemblea. E quindi infatti è stata una cosa, l'unica, credo, piazza che è andato tutto liscio come l'olio dal punto di vista della gestione. Certo. Va bene, allora sulla seconda domanda invece iniziano le cose un po' più complicate. Cioè, dopo quei giorni tu come sei tornato a casa? Cioè, quali erano i tuoi pensieri, i tuoi, insomma, dire, come risultato di quelle giornate, cosa ti portavi a casa? Cosa ti sentivi addosso? Cosa pensavi per il tuo futuro immediato dopo Genova? Beh, ovviamente è stata una mazzata. Oltretutto io ero, c'era anche mio fratello che era invece con Rifondazione, lui c'era cioè, con giovani comunisti, insomma, e quindi tutti e due siamo tornati da Genova, avevamo frequentato mondi diversi, però entrambi abbastanza scioccati. E chiaramente poi, insomma, in quei giorni erano stati duri per tutti, perché appunto il 19 era andato tutto liscio in realtà. Il 20 io me la sono vissuta in modo surreale, ripeto, perché succedeva di tutto a Genova, mentre nella nostra piazza c'è stato un corteo compatto, con un servizio d'ordine molto forte, scritte, azioni, ma tutto, insomma, ripeto, tranquillo. E il 21 poi invece tutti quanti ci siamo subiti una mega repressione fortissima da Piazzale Kennedy in poi. Mi ricordo di aver solo corso tutto il giorno, insomma, e di aver rischiato più volte di prenderci una fraccata di mazzate. Da Genova poi siamo praticamente andati via in modi rocamboleschi, e dai giorni dopo io mi ricordo una cosa bellissima, è che c'era grande forza e voglia di continuare. E quindi mi ricordo di questo corteo fatto a Milano, che è arrivato anche in Piazza Duomo, dove avevamo rincontrato tanti che erano del network, che ancora dovevano tornare a casa o comunque perché avevano paura, stavano aspettando, quindi tedeschi, francesi, americani, statunitensi, intendo, sudamericani. Mi ricordo di compagni cileni, compagne boliviane, cioè che ci siamo rincontrati a Milano, abbiamo fatto questo corteo enorme contro la repressione, ma proprio dopo pochi giorni, una settimana dopo quei giorni lì. Quindi cioè, siamo tornati con una grande forza e con una grande voglia di continuare a lottare, un pochino di paura, ma con una grande voglia di continuare a lottare e di continuare a fare tutti i percorsi contro la globalizzazione economica e contro quello che era il mondo che poi adesso conosciamo molto bene, perché insomma possiamo dire che di sicuro non hanno vinto le nostre istanze, di sicuro non quello degli anarchici contro i G8, ma credo che nessuno può dire di aver vinto qualcosa dopo Genova, diciamocelo. E poi niente, l'altra cosa che invece ha cambiato tutte le sorti della questione è stata quando è arrivata la mazzata della repressione, perché poi due compagni, una compagna precisamente Marina, era del mio collettivo, Vince aveva frequentato il circolo per tanti anni, e quindi insomma la mazzata poi è arrivata dopo, quando sono iniziati gli arresti pesanti per un po' di persone, e anche la riflessione sulle torture che erano state fatte nelle caserme, sugli arresti e su quello che era successo in quei giorni. Allora, a questo punto volevo farti un'ulteriore domanda. Cioè, dopo Genova, si sono cambiati i rapporti all'interno dell'anima del movimento? A livello internazionale, a livello milanese, nell'area anarchica, tra chi era per organizzazione e chi non era per organizzazione? Cioè, nell'immediato, come si dice, post Genova, è Ma cambiato qualcosa guarda, nei rapporti? in realtà devo essere sincero che no, cioè nel senso che lo scazzo nostro che c'è sempre stato con questa separazione è rimasto alla fine, è rimasto, non è diventato né più forte né meno forte. E invece dall'altra parte si sono insomma creati molti più sodalizi, cioè nel senso che comunque c'era tutta un'area abbastanza compatta che andava appunto, per quanto riguarda poi il discorso milanese, che era l'area che aveva fatto anche l'11 novembre la manifestazione antifascista, insomma, che riuniva tutti tranne Leoncavallo, ripeto, cioè eravamo abbastanza compatti da questo punto di vista. Certo, ovvio, c'erano anime diverse, c'erano diversi rapporti fra le anime del movimento, però io personalmente, in realtà, come collettivo milanese, veramente non avevo scazzi con nessuno all'interno dei vari movimenti. Poi c'era chi ti stava più simpatico e chi meno simpatico, con chi avevi più affinità e con chi avevi meno affinità, ma diciamo che la relazione dopo Genova è rimasta abbastanza buona, anche perché poi chiaramente c'è stato tutto un mondo di movimento che non ha fatto altro che cercare di dividere fra buoni e cattivi, di criminalizzare, di puntare il dito, oltretutto seguendo le imboccate della Digos. E invece c'è stato tutto un movimento, per fortuna ampio e variegato, che non era assolutamente soltanto quello anarchico, che ha deciso di non voler dividere fra buoni e cattivi, oppure i buoni si sa chi sono e i cattivi stanno dalla parte dello Stato. Quindi diciamo che questa è stata la grande differenza. E chiaramente il Leoncavallo non ha fatto altro che aumentare lo scazzo, dicendo: dicendo i cattivi sono corrieri, i cattivi sono gli anarchici, e uniamoci contro i cattivi tutti assieme. Addirittura ci sono stati esponenti di quel mondo che hanno fatto fiaccolate con le istituzioni contro quelli che erano stati i cattivi di Genova, ma sono stati veramente in pochi, a Milano quasi nessuno in realtà. E quindi diciamo che la separazione non c'è stata, perché tutto il movimento milanese era compatto contro la separazione buoni cattivi. Ah, ero rimasto al fatto che più spazi rispetto a che solo un cavallo avessero continuato questa divisione, ma è evidente che ci sono un po' di, come si dice, di interferenze nel racconto di Genova e nel ricordo di Genova, per cui molto spesso si accusano, sì, anche persone che non hanno fatto questa divisione, li si accusa un po' per calcolo, forse un po' perché ci si ricorda molto male cosa è successo, oppure perché... Ma no, io mi ricordo precisamente, io non voglio farli i nomi e cognomi delle persone che hanno fatto queste divisioni, tanto che a Milano li sanno tutti. Poi è chiaro che all'interno magari di altri giri c'era qualcuno che era più per la divisione, meno per la divisione, però le cose ufficiali che erano uscite poi tendenzialmente le più gravi erano state quelle, insomma. Mm-hmm. Okay. Secondo me, poi, cioè, io parlo di Milano, ovviamente, in questo caso, certo. Nel senso che ripeto che c'era stato, cioè, io mi ricordo quando poi sono arrivati gli arresti di Marina Vince, hanno dato tutti solidarietà ai milanesi e tutti hanno partecipato alle iniziative, chi più chi meno, tranne quelle persone. Sì, forse se c'era già Casaloca non mi ricordo, e non sì. Mi ricordo neanche del cantiere. Che sì, no, il cantiere era occupato nel 2001, in realtà, se non sbaglio proprio, e Casaloca anche loro... intorno a quell'anno lì, diciamo che non erano le realtà forti, che, cioè, diciamo che non erano quelle che frequentavamo, erano neonate, e quindi diciamo che non mi ricordo sinceramente, di sicuro non ci si frequentava. Ripeto, poi io comunque sono cresciuto molto nel Milano Sud, e quindi diciamo che a Milano Sud lo scazzo non c'era su questa cosa, perché tutto il comitato Casa e Territorio, l'Orso, la RAF, Torricelli, eravamo tutti senza scazzi. Da questo punto di vista eravamo tutti d'accordo che il nemico era lo Stato, non erano di sicuro i compagni che avevano fatto determinate cose durante i 3 giorni. Ok, ma allora procediamo con la terza domanda. A distanza di 20 anni da quei giorni, ci sono alcune cose su cui hai cambiato idea riguardo magari al modo in cui, non tanto il modo in cui sei stato in piazza, perché tanto se ne è parlato tantissimo, al modo in cui sono state organizzate quelle giornate, all'idea di fondo di combattere i summit in quella maniera, o in tutte le maniere con cui si è cercato di combattere i summit in quei giorni? Cioè, quali sono le cose su cui, ripensandoci, hai detto ok, magari nel primo periodo ne ero convinto che avevo fatto la scelta giusta, adesso che sono passati 20 anni mi rendo conto, o mi sono reso conto nel tempo, che alcune cose erano sbagliate, non funzionavano? Ma guarda, ti direi, se tornassi indietro rifarei tutto, quindi non ho rimorsi, però poi è sintomatico probabilmente cambiare. E quindi sì, io adesso come adesso non vedo più l'utilità di spendersi così tanto e rischiare così tanto per radunarsi. Forse sono più dell'aria adesso di chi ha detto ma io a Genova neanche ci vado, andiamo a giocare a racchettoni contro il G8 in quei giorni. Cioè, io credo che essere contro il G8 oggi significa seguire le lotte della logistica, significa essere presenti nei quartieri, significa fare le lotte per il diritto alla casa. A me che gli stronzi si riuniscono quel giorno a Genova, credo, cioè, adesso come adesso sinceramente non spenderei me stesso per fare la lotta di quei 3 giorni, mi sembra abbastanza inutile. Poi comunque non sarò mai contro delle giornate dove si accendono delle rivolte, quindi tendenzialmente la cosa interessante poi è stata anche proprio la contestazione a un'urbanistica calata dall'alto nella gestione delle piazze che c'è stato in quei giorni, quindi io sono comunque positivo, però se penso a quanto hanno pagato tante persone anche a livello fisico e mentale, dico boh, secondo me non ne vale tanto la pena. Cambiato l'idea? No, perché, cioè, diciamo che l'unica cosa è che ero più piccolo, ero più impreparato, ero più ovviamente ignorante, ma ignorante nel senso che ignoravo determinate tematiche, e quindi sì, essere contro la globalizzazione per me oggi è un controsenso, nel senso che io sono contro la globalizzazione capitalistica, ma io so come persona che il mondo è globale, ma da molto prima delle manifestazioni contro il G8, no? E quindi diciamo che sì, forse cambierei certi testi dei volantini che ho scritto in quegli anni, cioè di fare un pochino più raffinati nell'analisi, però ripeto, non ho cambiato idea sulle critiche che facevamo, e non ho cambiato idea su determinate modalità in cui si portavano con forza delle tematiche, però dall'altro punto di vista ammetto che io oggi non mi spenderei come avevo fatto, anche perché sono età diverse ed è importante, eh? Non lo dico perché i giovani devono fare la rivoluzione e quelli più grandi no, ma è normale che se tu hai 18 anni e vivi con la tua famiglia e vai a scuola e puoi farti appunto, come dicevo prima, tutta Italia, tutta Europa, tutti i fine settimana, cortei sempre, e invece poi lavori 8-9 ore al giorno perché ti devi mantenere, è chiaro che devi dosare come Eh già. spendere le tue energie nelle campagne di lotta, no? Quindi io ho vissuto il G8 anche da privilegiato, cioè da uno che poteva permettersi, perché faceva lo studente, di esserci sempre a tutte le cose. Adesso non è più così. Quindi non sarei mai contrario a chi lo fa, a chi lo organizza, mai proprio. Però io personalmente sì, ho cambiato un pochino l'idea su seguire i vertici, insomma, secondo me non ha un gran senso, ma non togliere, non tarperei mai alle ali a dei giovani che lo vogliono fare. Gli direi state attenti perché la repressione arriva, quindi fatelo con intelligenza. Cavolo, è incredibile come alla fine della fiera sei proprio un libertario, cioè non limiti la libertà di nessuno. Chi l'avrebbe mai detto, eh? Chi l'avrebbe mai detto? Ma invece, dato che c'è un buon rapporto tra questa radio e Andrea Staid, ti becchi delle domande bonus che mi invento io al momento perché voglio farti parlare di più. E una delle domande è questa: facendo diciamo, appello a tutte le tue riserve mnemoniche, cosa è successo poi al movimento in questi 20 anni? Perché sotto certi punti di vista si può dire ha cambiato forma, ha cambiato modo di esprimersi, ha cambiato spazi, lotte, e si può dire così, diciamola, per dirla in politichese. D'altra parte si può dire che abbiamo perso molta della presa che c'era sulle persone, sulla massa di poveri, povere, esclusi, emarginati, emarginate, eccetera. Secondo te, dopo il G8 di Genova, quali sono stati i passaggi in cui si è dispersa un po' quell'energia così potente che c'era comunque a Genova e a cui tra l'altro lo Stato ha dovuto rispondere così, perché sennò non riusciva a limitarlo? Beh, diciamo che qui ti rispondo in due modi. Il primo è che hai ragione e sicuramente c'è stato un calo e una presa completamente diversa, però è anche vero che lo Stato ha affinato le sue armi e non per niente c'è stata una repressione così forte. Cioè, la repressione ha funzionato. Io ho visto appunto i collettivi, le occupazioni calare tantissimo a livello di militanti o chiamiamoli come vogliamo, sentiamo questa parola non è il massimo, però insomma attivisti, non mi piace neanche quella, quindi chiamiamoli come vogliamo. Comunque le persone che stanno dentro i gruppi si sono spaventate, soprattutto i più giovani, i genitori dei più giovani che gli dicevano di non frequentare, si sono affinate le leggi per reprimere, le leggi burocratiche nelle scuole per non far fare le cose, le leggi sul decoro nelle città. Quindi sicuramente la Stato ha fatto dei passi avanti di repressione. E poi c'è un'altra grande questione, che è quella della tecnologia, della videosorveglianza e della sorveglianza tecnologica. Noi siamo così felici di essere sui social, sui nostri mezzi, su avere i nostri smartphone, ma ci hanno in realtà fottuto completamente, perché se è vero che sono anche un modo per far espandere le lotte, io, questa è la mia posizione assolutamente criticabile, sono convinto che in realtà sono stati molto più utili alla repressione che all'espandersi del movimento. Le pagine Facebook oggi funzioneranno bene, a parte che sappiamo di chi facciamo guadagnare quando li usiamo, ma io credo che la capacità organizzativa che aveva Indy Media e la presenza che aveva nella quotidianità di tutti noi era completamente diversa rispetto a quella dei social network. Quindi io credo che sia sì peggiorato, ma non a caso, perché c'è stata una campagna di contrattacco fortissima da parte dello Stato che ha portato a una compressione del movimento. E poi c'è il cambiamento sociale, c'è il cambiamento politico, c'è il cambiamento proprio anche dell'era in cui viviamo. E quindi sempre tutti hanno detto quando eravamo noi giovani era meglio, quindi mi sento proprio un vecchio di merda a pensare di dire che era meglio quando non eravamo giovani. Quello che dico io è che adesso è molto più difficile proprio far entrare in relazione i corpi, creare conflittualità reale, proprio perché è cambiata e mutata antropologicamente la vita quotidiana dei soggetti e degli individui. E questa è una cosa sulla quale dobbiamo ragionare. Ci sono molti meno centri sociali, sono molte meno occupazioni, questo potrebbe non essere un problema perché possono cambiare le cose. Quando il movimento rivoluzionario era forte non esistevano i centri sociali, quindi potrebbe essere anche soltanto una parentesi, quella dell'occupazione dei centri sociali. Ed è importante trovare però un modo di riuscire a essere attivi e in realtà incisivi nel cambiamento. Al momento ci sono un sacco di cose interessanti, ma anche tante preoccupanti, secondo me. Bene, vedo che c'è un bambino che invece sta facendo che lo sentire. Stanno sgozzando perché ci sono i compagni comunisti che hanno fame, si avvicina la cena. Finalmente, e... finalmente. È una cosa veramente bella. Poter mangiare bambini ancora adesso col 2021, alcune cose non cambieranno mai, vero? Esatto, delle certezze ci sono sempre. Ma allora adesso in realtà tu mi hai quasi rubato, mi hai lanciato perfettamente l'ultima domanda a seconda di come la si vede. Stavi parlando adesso del fatto che è mutata antropologicamente la forma della vita delle persone e anche forse le persone stesse sono un po' cambiate in questi 20 anni, e mi pare che di antropologia tu qualcosa ne capisci, mi pare. Quindi secondo te cosa serve al movimento o quali potrebbero essere idee per il movimento per essere di nuovo ugualmente forte, rivoluzionario, creativo, potente, partecipato, senza voler essere la replica di quello che c'era a Genova? Cioè, quali potrebbero essere le cose che da Genova si possono imparare, se possibili, per replicarle, se hanno ancora senso oggi, per tornare a essere dello stesso peso, della stessa importanza? Ma guarda, io imparerei più da Seattle che da Genova, imparerei più dal 1918 e 20 e dal 36. Diciamo che da Genova è stata una bella esperienza, ma non mi sembra che ci sia tanto da imparare, sinceramente. Seattle è più interessante, visto che siamo in tema vertici contro il G8, perché Seattle sì, è stato un vertice dove è successo di tutto, ma la cosa più interessante è come sono arrivati a avere quella potenza negli Stati Uniti a livello di movimenti, cioè creare cooperative, federazioni, casse di mutuo appoggio, casse di solidarietà, o avere intere vie autogestite tramite proprio cooperative che avevano il bar, la ciclofficina, il supermercatino che aveva solo prodotti biologici fuori dalla grande distribuzione, quindi dei network che ti portano a gestire fette della società. Questo non vuol dire non pensare, non volere un cambiamento rivoluzionario, ma significa cominciare a produrlo nel mentre fai quel percorso. E quindi dal mio punto di vista questo è quello che dovremmo ricominciare a fare, cioè essere presenti realmente nel quotidiano, cosa che in tantissimi fanno, infatti molti quelli delle ascoltatrici e ascoltatori diranno beh, ma la scoperta dell'acqua calda, e infatti è la scoperta dell'acqua calda. Quello che dico io è che appunto non credo che ci sia tanto da imparare da Genova a livello di capacità conflittuale, perché mi sembra che la cosa più interessante, se si dovesse parlare secondo me di capacità conflittuale di Genova, è stato un po' lo spontaneismo, perché il resto non è andato bene, bisogna essere sinceri, mentre Seattle si è portato dietro un qualcosa di molto forte, che è riuscito poi a portare anche movimenti di Occupy, cioè insomma costruire una società dentro la società che rema contro la società capitalistica. Questo secondo me è una cosa interessante, che chiaramente ci trova molti contrari, perché molti dicono che è una visione troppo soft del cambiamento, però io la penso così, e quindi credo che la cosa interessante potrebbe essere proprio questa, cioè capire come bisogna sedimentare, creare fondamenta che possano produrre il cambiamento, che poi è esattamente quello che anche in altri momenti storici si era fatti, cioè quando i movimenti sindacali rivoluzionari erano forti, cosa facevano? Facevano questo, casse di mutuo appoggio operaio, capacità di gestione di aziende che si muovevano e creavano produzione di lavoro libero dal capitalismo e cose di questo tipo. Quindi io andrei su questa rotta, però ripeto, le posizioni sono tante e differenti, e non mi sento neanche di affermare che la mia visione sia l'unica possibile, assolutamente, sono aperto al confronto e al dibattito. Ma secondo te, per questo, chi si presentava a Genova, magari nell'ambito della Social Forum, non aveva questo metodo, questa prospettiva, cioè quella di creare angoli di rivoluzione, tolto diciamo il fatto che tutti quelli che facevano parte di un centro sociale tendenzialmente avevano questa impostazione, essendone coscienti o meno, perché la TAZ, lo spazio temporaneamente liberato, lo spazio occupato, è il tentativo di creare qui ed ora uno spazio libero, e per cui un piccolo frammento di rivoluzione nel tempo e nello spazio, eccetera. Dopodiché ci si concentrava moltissimo di più sulla, cioè sto pensando più che altro all'area della disobbedienza civile, sul rapporto con l'autorità per ottenere qualcosa, per vivere meglio, per farsi garantire dallo Stato qualcosa per poter vivere meglio. Per cui, cioè, secondo te a Genova mancava questo all'infuori magari dell'area che hai frequentato di più tu, che l'ha fatto meglio, cioè l'hai appena raccontato che l'aveva fatto a Genova? Ma nell'area che ho frequentato io sicuramente mancava questo. Ah, ok. Perché c'era poi tutto lo scazzo sull'autoreddito, sul fatto che non ci si, perché non si può, cioè c'era tutto un dibattito sulla questione dei soldi, e comunque sì, esisteva questa cosa, ma era secondo me debole. In Germania era forte invece, per esempio, nel nostro giro, e anche in Francia erano messi molto meglio, in Spagna ovviamente gli spagnoli prima forse non li hai neanche citati, ma sono quelli che erano strutturati meglio di tutti da su questo punto di vista. Basta considerare che il sindacato anarchico spagnolo, che sono due oltretutto, uno di questi, la CNT, negli ultimi anni hanno comprato sedi in tutte le città, comprato quindi proprietà. In Italia una cosa del genere sarebbe già soltanto questo un dibattito gigante nella mia area. E per quanto riguarda la questione del social forum, mia madre era del social forum invece, e anche mio fratello, quello che penso io che in Italia non sono riusciti, cioè ognuno faceva il suo orticello, capisci? Cioè non c'era un dialogo reale, e soprattutto c'erano i partiti, e dal mio punto di vista il partito di Rifondazione Comunista, il partito dei Verdi hanno poi soltanto lo sconquasso della possibilità di fare questo network di federalismo e affinità. E poi c'era la questione dell'egemonia. Cioè la cosa che più contrasto io al movimento del social forum o a quello dei disobbedienti di cui tu hai parlato è che loro volevano essere gli unici e che dovevano essere quelli che facevano le cose così, e tutti dovevano allinearsi a quel modo di vedere e di fare, e non gli ha funzionato oltretutto secondo me questa cosa, perché poi ha portato anche all'interno di quell'area a un grandissimo scazzo e delle separazioni. Però questo, ripeto, è sempre il mio punto di vista. Va bene, io ho sempre brutto vizio di scrivere, per cui c'è sempre questo secondo di silenzio mentre io finisco di scrivere, mentre tu parli. Va bene, allora in realtà sei fortunato, te la sei già cavata, perché evidentemente hai il dono della sintesi, mentre io questa cosa no, e i miei compagni lo sanno bene, perché intervengo troppo in assemblea e per troppo tempo, anche se sto cercando di migliorare. L'ultima domanda, come al solito, è una cosa molto più leggera. Dici un brano musicale che si intona con la tua presenza al G8 di Genova. Cioè, cosa ascoltavi al tempo, cosa era la traccia che ti ha colpito, che ti ricordi? Beh, in realtà dipende, se dovessi essere onesto, quindi la cosa che più mi ricordo... Allora, potrei dire un sacco di roba super mega underground, anarchica, punk hardcore, così, che ascoltavamo in 5.000 in tutto il mondo. Spero di no, grazie. E quindi invece se devo dire la vera traccia per me di quei giorni, come per molti, era Manu Chao, chiaramente. Odiato, amato, io ho amato in realtà, a me è sempre piaciuto, lo dico senza vergogna, mi è sempre piaciuto, e sì, sicuramente era lui, una delle sue tante tracce di quei giorni. Va bene, io qui ho Clandestino, già pronto per partire. Clandestino ovviamente era assolutamente la colonna sonora che mi portava avanti in realtà già dagli fine anni... quando è che è uscita quella? Non so se è uscita, secondo me era uscita prima nel 2000, sì, nel 99. Può darsi. Dopo la cerco, guardo, ti scrivo per dirti questa cosa, però boh, io ero piccolissimo, per cui non ho idea, potrebbe benissimo anche essere il 97, 96 o 98. Sì, comunque secondo me era uscita prima, però appunto sarei veramente falso a non dire che quella è stata una delle colonne sonore di quei giorni. Va bene. Dai, io di solito mando la traccia e tolgo il rec. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal.